Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Grecia, ripartono le tensioni sui mercati, Atene giù del 5%, netto calo anche per il resto d'Europa. Sindaci lombardi in piazza per avere più risorse, manifestazione con 400 amministratori, dal PD alla Lega. Firmato il nuovo trattato sulla non proliferazione nucleare tra Obama e Medvedev, all'ombra delle tensioni sul Kirghizistan. Calcio inizia il braccio di ferro sui diritti TV dei mondiali, Calciopoli, nostro sondaggio, molti favorevoli a riaprire le indagini. Not only in deployed but also non-deployed missiles. There are a whole range of issues. Quella che sentite in diretta è la conferenza stampa congiunta del presidente americano Barack Obama e del suo omologo russo Dmitry Medvedev. A Praga è stato appena firmato il nuovo trattato START 2 sulla non proliferazione nucleare. In apertura della seconda parte del giornale radio, dopo la viabilità, approfondiremo il tema. Adesso ci occupiamo di mercati. Oggi a Francoforte, riunione del direttivo della Banca Centrale Europea, non sono attese decisioni per quel che riguarda i tassi di interesse, sono attese invece parole del presidente Jean-Claude Trichet sulla situazione greca. Anche oggi dati preoccupanti dai mercati. In diretta la nostra Deborah Rosciani. Sì, Deborah. Allora la giornata appare di nuovo piuttosto difficile per i mercati azionari europei, come se l'Europa oggi, almeno stamattina, avesse preso improvvisamente coscienza della difficile situazione greca, situazione che si va sempre più appesantendo anche alla luce dei nuovi record negativi che sono stati toccati questa mattina. I tassi di interesse sulle obbligazioni governative a 10 anni hanno toccato il nuovo livello storico del 7,42%, è una soglia mai vista dall'introduzione dell'euro, mentre lo spread, cioè il cosiddetto differenziale con il paritetico titolo tedesco a 10 anni, si è attestato al 4,34%, cioè in sostanza per collocare un'obbligazione a 10 anni la Grecia agli investitori deve pagare il 4,34% in più rispetto a quanto non faccia la Germania con gli investitori. Tutto questo è stato provocato da una nuova situazione che si è manifestata ieri. In sostanza le banche greche hanno chiesto al governo aiuti per 15 miliardi di euro in garanzie di Stato dopo che hanno visto in dicembre, hanno fatto un punto della situazione, volatilizzarsi 10 miliardi di euro dai depositi. In sostanza i cittadini stanno cominciando a chiudere i conti correnti e li stanno portando praticamente verso altre banche di altri paesi e quindi il focolaio greco si appesantisce ogni giorno di più e questo naturalmente si è trasferito questa mattina pesantemente anche in borsa, Simone. Grazie dunque a Deborah Rosciani. Nel frattempo arriva la notizia che la Banca d'Inghilterra ha deciso di lasciare invariati i tassi allo 0,5%, esattamente come ci si attendeva. Ancora economia. Agip ha rotto gli indugi, oggi è aumentato di 1,4 centesimi il prezzo della benzina e di 1,7 quello del diesel, portando così il prezzo a 1,422 al litro per la verde e a 1,252 per il gasolio, rialzo anche per API e IP, più 1,6 sulla verde e più 1,9 sul gasolio. Intanto il governo sta studiando eventuali misure. Il sottosegretario alle attività produttive Stefano Saglia pensa come risposta immediata ad una sterilizzazione dell'IVA, dati che pesano sui redditi degli italiani già fiaccati dalla crisi, come segnala oggi l'Istat. Le famiglie italiane sono più povere, il loro reddito ha subito un calo record, meno 2,8% dal 2008 al 2009. Si tratta, secondo l'Istituto di Statistica, dell'andamento peggiore dagli anni 90, da quando cioè sono disponibili le serie storiche. In linea con il calo del reddito, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 2,6% rispetto all'anno precedente. La crisi ha poi costretto a ridurre la propensione al risparmio, che si è attestata al 14%, anche qui un dato record, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Ma la difficile congiuntura economica ha inciso molto anche sulle imprese, in calo infatti anche la quota di profitto delle società non finanziarie, diminuita lo scorso anno di 1,8 punti percentuali rispetto al precedente, e anche in questo caso si tratta del livello più basso a partire dagli anni 90, con un calo del risultato lordo di gestione del 9,5%. Alessandra Schepisi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora conti, ma non delle famiglie, delle amministrazioni locali. A Milano in piazza i sindaci lombardi, ha seguito per noi la manifestazione Anna Migliorati, che in questo momento è qua in studio. Anna. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Avevano promesso che sarebbero stati in tanti ed erano circa 400 i primi cittadini lombardi di tutte le parti politiche che questa mattina si sono riuniti a Milano, hanno sfilato fino alla prefettura, al Palazzo del Governo e simbolicamente hanno restituito la fascia tricolore. L'obiettivo della protesta è il patto di stabilità interno, quel meccanismo che consente di tenere in ordine i conti dello Stato, ma che sui comuni ha un effetto, dicono i primi cittadini lombardi, paradossale. In sostanza, i comuni cosiddetti virtuosi, cioè che riescono a tagliare i costi e a risparmiare, non possono reinvestire tutti i soldi che hanno in cassa, possono utilizzarne solo una parte. Cosa dicono allora i primi cittadini lombardi? Noi, dicono, potremmo in periodi di tagli e di crisi investire in servizi e non lo possiamo fare. Dall'altra parte invece lo Stato ripiana i conti di quei comuni che sforano i bilanci e vedi ad esempio Catania. Un malumore, dicono i sindaci, che a questo punto la gente, i cittadini non capiscono più. Ecco cosa ci hanno raccontato. Ranica Bergamo, giunta di centrosinistra. Qui come mai? Patto di stabilità. Noi crediamo nelle regole, però siamo un comune virtuoso. Abbiamo circa 1 milione di euro da spendere per infrastrutture, per servizi sociali, però non possiamo spenderli. Assessore alle finanze del comune di Pontoglio in provincia di Brescia. Giunta di centrodestra, sindaco del PDL. Le nostre richieste sono semplici. Al presidente Formigoni chiediamo quantomeno di creare un patto di stabilità a livello regionale. Calolzo Corte, provincia di Lecco. Lega con una frazione del PDL. Che... Siete un comune virtuoso voi? Sì, 7 milioni di euro in cassa stanziati su opere pubbliche attese dalla comunità che non posso spendere. I miei cittadini non lo capiscono, pensano che li inganni, che non abbia i soldi, invece i soldi li ho e non li posso spendere. Così dicono i sindaci lombardi. Non c'era in piazza il sindaco di Milano Letizia Moratti, che ieri però ha sentito invece Palazzo Chigi. Si aprirà probabilmente a breve un tavolo istituzionale. I sindaci lombardi guidati dal leghista e primo cittadino di Varese Attilio Fontana attendono una risposta dal ministro dell'economia Tremonti. Difficile per la verità che si riveda il patto di stabilità. Sul tavolo però c'è anche il federalismo fiscale e a questo puntano i sindaci lombardi ad un'accelerazione. Tutto da vedere ovviamente quel che succede. Succederà, Simone. Grazie dunque ad Anna Migliorati, che ci ha parlato anche di federalismo fiscale, l'attuazione del quale è tra le riforme richieste non solamente dalla Lega nei prossimi 3 anni di legislatura. Di riforme si continua a discutere naturalmente nel mondo politico. Ci colleghiamo in diretta con Montecitorio per le novità di giornata con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Un dibattito che si è avviato, quello delle riforme, ma che vede già la necessità di alcuni chiarimenti. Il primo all'interno della stessa maggioranza. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha confermato ieri sera, al termine dell'ufficio di presidenza del Popolo della Libertà, che vi sono allo studio interventi su semipresidenzialismo, giustizia e fisco, ma ha chiarito il premier servono gli opportuni approfondimenti e il confronto è aperto anche a Partito Democratico ed UDC. A molti le parole di Berlusconi sono sembrate quasi uno stop all'accelerazione impressa al dibattito dal ministro Calderoli, che ha consegnato al capo dello Stato un documento con quelle che dovrebbero essere le linee guida della nuova stagione di riforme. Oggi lo stesso Calderoli ha spiegato a Belpietro a Mattino 5 quanto successo ieri. Sentiamo allora le sue parole. Ma io dopo aver visto il presidente Napolitano che mi ha chiamato ieri mattina l'ho subito avvisato di questo incontro. Quindi è stato Napolitano a chiamarla? Sì, e credo che il dialogo che era comparso sui giornali in relazione anche all'elezione diretta del Presidente della Repubblica ovviamente lo interessasse, voleva avere qualche ragguaglio rispetto al dibattito che era in corso. Resta comunque la perplessità per l'iniziativa di Calderoli da parte dello stesso Berlusconi ed anche dei presidenti di Camera e Senato. Altro tema di confronto alla giustizia, Mancino, vicepresidente del CSM, boccia l'ipotesi di 2 consigli superiori della magistratura in funzione della separazione delle carriere. Il ministro Alfano replica, siamo ancora a livello di bozze, non c'è ancora un testo da portare in aula. Al Parlamento guarda intanto il Partito Democratico e quella la sede per un confronto, dice Bersani. E da Roma è tutto. Grazie dunque Vincenzo Miglietta e restiamo a Roma per parlare di cronaca con le risultanze della perizia medico-legale sul caso di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi non è morto per disidratazione, ma per la negligenza del personale sanitario. La perizia medica disposta dalla Procura di Roma smentisce le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta. Estrema magrezza, battito cardiaco rallentato. Per il direttore del Dipartimento di Medicina Legale della Sapienza, Paolo Arbarello, il quadro clinico di Cucchi era già grave prima del ricovero nel reparto detentivo dell'ospedale Pertini. È morto per un complesso di affezioni dalle quali era in parte affetto precedentemente e in parte si sono aggravate in costanza di ricovero, che avrebbero dovuto essere affrontate diversamente da parte dei sanitari. Fino al giorno dell'arresto per droga mio fratello stava bene, la replica di Ilaria Cucchi. Stefano aveva un fisico esile, ma avete visto me, era il mio stesso fisico, sono magra anch'io, secondo lei potrei morire in 4 giorni. Per i medici a uccidere il geometra romano nell'ottobre scorso non sarebbero state neppure le lesioni alla colonna vertebrale, alcune recenti, altre meno. La relazione di oltre 140 pagine non le definisce conseguenza di un pestaggio, ma di una caduta. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 200 uomini della DIA e dei carabinieri di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore complessivo di 700 milioni di euro a carico di esponenti del clan dei Casalesi. I beni sequestrati appartengono agli eredi di Dante Passarelli, morto nel 2004 in seguito ad un misterioso incidente. Il patrimonio è costituito da società immobiliari ed agricole, da centinaia di immobili e di terreni agricoli. Antonio Girone, direttore della DIA di Napoli, al microfono di Paolo Picone. Indubbiamente la conferma che l'entità, diciamo così, della holding del crimine dal punto di vista economico-finanziario è piuttosto rilevante. Se noi catturiamo un latitante eccellente, conseguiamo un certo risultato, ma ci sono tanti altri che possono subentrare nell'organizzazione con posizioni più o meno carismatiche. L'indebolimento sul piano dei patrimoni diventa però più significativo perché comincia a creare delle difficoltà organizzative per quanto attiene ad esempio tutto l'aspetto della sovvenzione dei congiunti che sono fuori del carcerario e quindi la struttura stessa incontra difficoltà. C'è facilità di sostituzione nell'ambito dei ruoli, ma indubbiamente per i patrimoni ci vuole molto più tempo. Parliamo di golf in chiusura di questa prima parte. Il rientro alle gare di Tiger Woods dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto, ma anche 3 italiani per la prima volta insieme sul green più prestigioso al mondo. Momento storico dunque con il Master di Augusta in Georgia negli Stati Uniti che scatta oggi. A difendere i colori azzurri i fratelli Edoardo e Francesco Molinari e il baby fenomeno Matteo Manassero a 16 anni e 357. A 16 anni il più giovane giocatore nella storia del torneo e all'ultimo torneo da dilettante prima del passaggio tra i professionisti. Sentiamolo. Forte emozione, sono contentissimo di essere qui e è un posto speciale, c'è un'atmosfera incredibile, sono veramente contento. Non ho obiettivi per questa gara, insomma è troppo grosso, insomma, voglio giocare il mio meglio e divertirmi. Prima gara da professionista all'Open Italia, la prima di maggio. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato delle nuove tensioni sui mercati che riguardano la Grecia, che stanno spingendo al ribasso le borse. Abbiamo parlato di riforme, del dibattito politico su questo tema, abbiamo parlato dei redditi degli italiani, abbiamo parlato anche dei sindaci lombardi che sono scesi in piazza per avere più risorse e hanno appunto manifestato a Milano. Adesso torniamo all'estero e a Praga. Весомым итогом нашей сегодняшней встречи я бы назвал продвижение по пути формирования нового качества отношений. Così come in apertura vi abbiamo fatto sentire la voce di Barack Obama, questa naturalmente è la voce del suo omologo russo Dmitry Medvedev, che definisce un avvenimento storico la firma del trattato START 2 avvenuta oggi a Praga. Dice: non ci sono né vincitori né vinti, ha vinto la sicurezza mondiale, la comunità mondiale. E ancora parla Medvedev di una pagina nuova nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, un aumento della sicurezza in tutto il mondo. Il trattato START 2 stabilisce un tetto di 1550 testate nucleari operative e un massimo di 800 vettori per ciascuna delle due superpotenze. Saluto Silvio Fagiolo, ex ambasciatore e docente di relazioni internazionali all'Università LUISS di Roma. Buongiorno. Allora, ambasciatore, il primo giudizio che le chiediamo è esattamente sul trattato START 2. Che cosa rappresenta? Guardi, rappresenta viene riannodato un filo che si era interrotto. e cioè il filo del dialogo tra Russia e Stati Uniti sulle difese, sugli armamenti nucleari, quindi una ridefinizione degli equilibri al ribasso, una deterrenza minima in luogo delle migliaia di testate che le due potenze posseggono, si va appunto verso le cifre che sono state indicate, che sono cifre molto minori. Quindi non c'è stato forse quel passo in avanti che alcuni si aspettavano, cioè che nella riformulazione della dottrina strategica degli Stati Uniti arrivassero fino a rinunciare al primo uso dell'arma nucleare, ma comunque nelle relazioni tra i due paesi questo trattato riporta il dialogo agli strumenti tradizionali dei patti verificabili, delle cifre, dei livelli di armamento convenuti rispetto invece al metodo che aveva seguito Bush figlio, cioè quello di dichiarazioni, impegni unilaterali. È un po', se vogliamo, anche un ritorno a Bush padre invece che Bush figlio. Quanto pesa, ambasciatore, la questione del Kirghizistan? Alla vigilia proprio di questo incontro, di fatto c'è stata una destituzione del governo in carica in un paese strategico, perché dalla base NATO che si trova là partono moltissime delle operazioni dirette verso l'Afghanistan. Ha un qualche peso, secondo lei? Il Kirghizistan è una delle aree in cui permane una competizione tra Stati Uniti e Russia. È un'area quella che soffre di una, se vogliamo, la cui instabilità deriva da due fattori: da un lato la difficoltà di trovare equilibri interni, poiché non c'è una transizione a un metodo democratico, ma nemmeno avvicinabile a quello che è successo in altri paesi che facevano già parte dell'Unione Sovietica. Insomma, è un regime basato sui clan, sulle famiglie, sugli individui, è un paese vulnerabile perché fra l'altro ha una situazione economica molto precaria, dipendente anche dalle rimesse di cittadini che vivono in Russia, e la Russia ha un periodo, vive un momento di crisi, quindi voglio dire c'è questa difficoltà raggiungere un equilibrio sia economico che politico all'interno, per un paese che invece si trova in un'area strategicamente fondamentale per gli equilibri di potere. Quindi da lì, come è stato detto, partono anche gli aerei americani, è una base importante per l'impegno americano in Afghanistan, ma è anche non lontano dal Pakistan, quindi tutto questo rende ancora più acuta la competizione, più accesa la competizione per quel paese che a sua volta, un po' come succedeva nel periodo della guerra fredda, cerca di trarre utilità da questa rivalità e quindi di ottenere vantaggi sia dalla Russia che dagli Stati Uniti. Grazie all'ambasciatore, ex ambasciatore Silvio Fagiolo, docente di relazioni internazionali all'Università LUISS di Roma, per essere stato con noi e per averci dato la lettura sui fatti di oggi. Noi torniamo all'Italia adesso per parlare di tangenti. È stato arrestato a Milano un giudice tributario e un consulente. L'accusa, tentata concussione. Tutti i dettagli nell'intervista di Raffaella Calandra al colonnello Marco Menegazzo del nucleo tributario della Guardia di Finanza di Milano. Questa mattina abbiamo proceduto all'arresto di due persone, un giudice tributario della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e un dottor commercialista in qualità di consulente tecnico d'ufficio sempre della medesima commissione. Si tratta di un'indagine relativa a una richiesta di somma di denaro di concussione. Un tentativo di corruzione per aggiustare un'ispezione tributaria. Nell'ambito della Commissione Tributaria regionale c'era un procedimento in corso e per aggiustare il procedimento, il giudizio, il consulente della commissione aveva cercato di ricevere dalla società ricorrente una somma di denaro. al fine di agevolarli nella decisione che poi avrebbe preso appunto il giudice. Qual era la somma richiesta? 40.000 euro, di cui 20.000 da consegnare subito in contanti e 20.000 con fatturazioni tramite società estere sotto forma di consulenze all'ottenimento della sentenza favorevole da parte della società. Grazie alla denuncia della vittima siamo riusciti ad arrivare appunto agli arresti. E ora a Torino per una brutta storia di cronaca. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 8 del mattino all'interno dell'invaso creato lungo il corso della Dora Baltea dalla diga idroelettrica di Quassolo, piccolo comune in provincia di Torino al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta. Gli addetti che operavano sul posto si sono trovati di fronte ai corpi senza vita di una donna e di un bambino. I carabinieri hanno accertato che si tratta di una madre 36enne casalinga e del suo figlioletto di 8 anni, entrambi di nazionalità italiana e residenti nella zona a Tavagnasco. I militari stanno indagando e mantengono uno stretto riserbo. Le prime ipotesi sono quelle di omicidio o più probabilmente di omicidio-suicidio. La donna, secondo indiscrezioni, ancora in attesa di conferma, era separata dal marito e viveva da qualche tempo in uno stato di depressione. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino. Calcio e TV, a poco più di 2 mesi dal fischio d'inizio e braccio di ferro sui diritti di Sudafrica 2010. Sentiamo. Si scrive Mediaset contro Sky, si legge Silvio Berlusconi contro Rupert Murdoch. C'è il braccio di ferro tra i due boss dell'etere dietro l'ennesimo duello tra i colossi della TV. Obiettivo: i mondiali di calcio di Sudafrica 2010. Sky manderà in onda tutto il mondiale sul satellitare. La Rai trasmetterà le partite degli azzurri e tutte quelle decisive, perché in Italia è d'obbligo trasmettere in chiaro gli eventi definiti di pubblico interesse. Ma ora anche il biscione rivendica la sua parte. Su quale piattaforma? Il digitale terrestre, naturalmente. Il fatto è che Sky Italia è titolare in esclusiva dei diritti di Sudafrica 2010 su tutte le piattaforme e non ha alcuna intenzione di venderne parte alla sua più diretta concorrente. Mediaset ha così presentato una richiesta di arbitrato alla Camera di Commercio di Parigi. Secondo Cologno Monzese, Sky avrebbe infatti violato gli impegni con la Commissione UE a Bruxelles del 2003, che impedirebbero a una piattaforma satellitare di mantenere in esclusiva i diritti per altre piattaforme che non esercita. In pratica, non utilizzando la piattaforma del digitale terrestre, se Mediaset chiede di acquistare, Sky dovrebbe vendere. Mediaset spera che l'arbitrato imponga a Murdoch la vendita dei diritti richiesti o almeno un risarcimento danni. Insomma, sarà battaglia di carte bollate, per di più dai tempi strettissimi, visto che il calcio d'inizio di Sudafrica 2010 è previsto per l'11 giugno. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 4 anni dopo si torna a parlare di calciopoli, viste le nuove intercettazioni presentate dalla difesa dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, che coinvolgerebbero anche l'Inter. A questo era dedicato oggi il nostro sondaggio. Qualche tifoso della Juventus, abbacchiato per come sta andando la stagione, ha trovato qualcosa di cui gioire. Spera, neanche tanto velatamente, di aprire una nuova calciopoli. Ci stanno provando gli avvocati di Luciano Moggi, inchiodato nel 2006 a quel sistema fatto di intimidazioni agli arbitri, pressioni, telefonate, che costarono alla Juventus la revoca di 2 scudetti, la retrocessione e la gogna pubblica. Ora spuntano voci, telefonate, che coinvolgono anche altre società. Anche l'Inter di Moratti, per esempio. E già dal fronte bianconero è partito l'assalto. Vedete che così facevano tutti? Anche per i nostri ascoltatori bisognerebbe riaprire quello scandalo, lo sostiene il 77% di voi. Ma alla teoria tutti colpevoli, nessun colpevole, Oliviero Bea, giornalista che da decenni scoperchi al marcio del mondo del pallone, si arrabbia. E tutti innocenti. Cerchiamo di capire come funzionava e come funziona oggi il sistema calcio. Ma scusate, ma il problema è che non funziona il sistema oggi, con gli arbitri di oggi, con Collina designatore, con questa federazione, con il potere sportivo e il potere politico sportivo, come non funzionava ieri. Bianco o nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cece, con in regia Carmelo Lauricella. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.